spazzatura, si nasconde nel cortile sognando l'avventura. Così gli squali della notte hanno completa libertà. Se hai più di 20 anni già ti chiamano papà, e hanno tutti un loro nome, un'onda che li porta via. Ma se non li tradirai ti faranno compagnia. Andiamo a Casablanca, andiamo tutti là, facciamo una vacanza come 1000 inverni fa. Andiamo a Casablanca, saremo tutti là in una grande stanza e tutto passerà. Qui non c'è differenza tra scalapi e galera, guardatevi le spalle quando crolla giù la sera. Poi ti giochi proprio tutto per una giusta dose, ho un autoradio al volo ma qui non ci sono prove. Così se tiri il giorno arrischiando qualche notte, diventi tu il più furbo e a tutti gli altri le ossa rotte. Perché quel cortile è il mare e la spiaggia un prato vecchio, e poi con le ragazze ti basta un giro in centro. Ehi, siamo a Casablanca, stiamo tutti là, facciamo una vacanza come 1000 inverni fa. Siamo a Casablanca, siamo tutti là, abbiamo una grandissima stanza e domani si vedrà. Piani e infinite televisioni, se togli i motorini solo sogni. Andiamo a Casablanca, andiamo tutti là, facciamo una vacanza come 1000 inverni fa. Andiamo a Casablanca, saremo tutti là